segnale più basso. È più basso. Vedi a vedere adesso com'è il segnale? Quanto ha salito? Il segnale è salito da 7 a 9. No, ti porti appresso un fruscio, fra. Porto appresso un fruscio, così. Sì, vabbè, ma se sia l'accordo anche. Quando usi qualche amplificatore è sempre così. Io sono entrato poco fa, un altro giorno in campagna, e infatti ci avevo le due U, fatto due chiacchiere lì, sono tornato a casa. No, io ho portato tutto via, tutte quelle radio che ho provato ieri, messo in tre scatole e provato in campagna. Qua ho lasciato il 430 e il 440 e basta. E fra un po' uno di due lo porterò via lo stesso, ne lascio uno solo. E tu la stai usando? Ok, sì, stavo usando quella radio vecchia con l'M500. Adesso ho l'M300. Al Caracora ce l'ha quel fruscio? No, adesso non ce l'hai più. Però ti ripeto, questa è più da reverbero che da ecco. L'altra è molto più seria. Oh, sì, allora probabilmente perché sto andando a 12. A 12 volt sto andando col microfono. Allora ci vuole la batteria, ci vuole. Capisci? Probabilmente è quello. Che non avevo batteria, allora siccome l'M500 si può alimentare direttamente alla 12 volt, con la 12 volt. Sì, sì, lo so, ce l'ho avuto io. L'ho avuto io quel microfono, nero, flessibile. Sì, sì, sì. Sì, c'è l'attacco dietro dei 12 volts. E poi c'è la regolazione dell'eco. È un bel microfonino, già funziona bene, fra. Non c'è problema. Sì, funziona benissimo. E infatti, allora, ho messo un lineare 737, che non è neanche 100 watt, quello lì. Mi sembra che sono intorno ai 70-80. Sì, sì, io ho due 747, vanno benissimo, sono dei bei lineari per dare un po' di watt a dei baracchini che danno pochi watt. Sì, una trentina di watt, 80-90 watt, non di più. Va bene, e anche quelli ho tutti messi dentro la scatola. Sì, sì, portati tutti via, l'armadio è vuoto, adesso devo smontarlo e portarlo in campagna anche quello. Vabbè, stiamo iniziando a portare via un bel po' di roba, domani un po' di scatole, iniziare a imballare roba che non serve, che è dentro gli armadi, così rimangono già belli che pronti. No, comunque stiamo andando bene, la radio è bella, eh? Sì, io ho fatto tutti bene gli ispezioni, li ho fatti perché non avevo un microfono a binare qua, non sapevo. E allora gli ho fatto gli ispettori, io stamattina ero a casa e ho preso anche due cose per fare i microfoni, dai, jack. Avevo capito, per fare gli adattatori. No, io ne ho uno universale. Devi comprarne uno universale, praticamente che non abbia quel tagliettino obbligatorio, in modo che tu puoi cambiare sotto, sopra, capito? Io me lo sono fatto fare così, non l'ho fatto io, però è universale, puoi attaccarci qualsiasi tipo di microfono in quell'adattatore, proprio adattatore nel vero senso della parola, adatta a qualsiasi tipo di microfono, perché non c'ha quello spazio obbligatorio, quel taglietto, no, che c'è, capito? E quindi tu, anche se le metti quelli, il maschio, no, che c'ha lo spazio per innestare in quella fare lì, nell'altro, nell'adattatore non ce n'è, è rotondo a 4, quindi puoi girarlo e cambiarlo come vuoi. Cazzo, vabbè, quello è facile fare, quello basta arrotondarglielo, quello dove c'è la radio, non è un problema, quello se lo lini si arrotonda, è quello lì, quello che è attaccato alla radio proprio, che oppure comprarne uno e fare lo stesso, uno per sole, è uguale, e poi lo fai girare. No, proprio lo spezzone, l'adattatore che va senza quell'affare lì. Io ho quello senza quel coso lì, quindi qualsiasi tipo di microfono tu puoi girarlo, capito, al contrario, puoi farlo ruotare, se no devi darle la posizione obbligatoria, devi invertire i fili. Invece senza invertire i fili, tu lo metti nell'adattatore sempre a 4 e 4, in uscita e in ingresso, e lo giri, lo inverti e non hai problemi, capito? Io ce l'ho così, ma l'ha fatto Gigi Vulcan. E in casa, scusa che avevo attaccato il microfono da Tomino, e allora ci vuole l'altro adattatore qua, ecco qua. Sto mettendo le mie BQ qua. Sì, infatti anche quelli che io, le mie BQ4 e BQ5, il Turner, io li metto, qualcuno va bene nei baracchini, mi pare nel 3009, nel Ranger no, nel 8001 no, tutti quelli che ho provato ieri, nel Typhoon 2 mi sembra, e quindi ho questo adattatore che inverto da sotto a sopra e si prende il microfono in automatico, capito, senza invertire i fili. Sì, quindi gli adattatori sono buoni, Prova, andiamo qua. Aia, così è. Cosa fa? Scusa, stavo controllando le stazionarie. Non è bella questa però la modulazione, fra, è compressa. Questa è compressa la modulazione? È compressa, cupa, no? Non è bella come l'M500. Ma cos'è, il più 4 o il più 5 è questo? Più 4, no, perché se avevi più 5 potevi praticamente regolare la tonalità. Qualsiasi tipo di baracchino di andare molto bene, fra, capito? Quindi li ho tenuti. Ok, com'è adesso come microfono? Un po' meglio, però ti porta appresso un rumorino. Mi porta appresso un rumorino adesso? Sì, fra, un tipo tipo innesco, una cosa del genere. Tipo un innesco c'hai sotto, fra. Leggero, ma si sente. Ok, e adesso ce l'hai ancora rimesso? No, adesso no. Ma c'è la modulazione? Modulazione è un po' meglio di prima. Adesso l'hai chiusa troppo, non stai uscendo di radio, fra. Adesso sto uscendo però. Ecco qua. Adesso già va bene. Forse la mia modulazione, la mia voce riesce a farli andare bene, ma io quando uso MB più 5 col 3009 o cosa, ti ho fatti sentire ieri, no, hai sentito la differenza? È una cannonata, sembra, questo microfono. Va molto bene, non l'ho mai toccato, io ne ho fatto punti, modifiche, niente. Cos'è Ducato va? Cacchi tui, adesso devi staccare il piantone, se no non esce. Ciao Marcolino. Ehi, buonasera, sono entrato da poco, dai. Sono già con le palle girate, quindi non rimango in radio. Ehi, uiaia. Sempre le palle girate, sì, tu. Prendi la vita come viene. Per quanti anni ho avuto le balle girate, io adesso me ne sbatto, adesso se le girano gli altri, capito mi hai, lascia perdere. Sì. Ecco la cosa io che porca uscita, adesso lo conto. E se te ne sceso la capsula sotto, la capsula non deve toccare al piantone, perché è isolata, è messa in mezzo, non deve toccare, è tutto lì quegli inneschi che c'è, quelle cose, tirala fuori e ti consiglio di mettere un pezzettino di cotone, proprio piccolino, e lei la metti in mezzo, ok? E vedi che tutti quei rumori che sta facendo non te li fa più. Ecco perché non si va, magari toccava la, faceva contatto, avrebbe toccava, perché c'è un filo lungo che è vicino, e toccava la carrozzeria. Come vuoi era quello? Ecco cosa è. Adesso me lo fa contatto, lui, non è smontato, tu hai visto, devo togliere pure il piantone. Sì, nel piantone ce l'ha visto, lo toglie. Quindi la cavatella, togli la capsula e la. Una volta che la piatti, la capsula le metti un cosettino di cotone, senza mettere altro, e gliela metti in mezzo proprio bella, bella ferma, e vedrai che il rumore non te ne fa più. Fra. E quindi Marco, non sei uscito ieri sera con IFA? Ecco! No, ieri sera no. Volevo andare lì alla Platamona, non ne avevo voglia. C'è un break, lo faccio venire avanti. Saluto ai circolari a tutti, dai Daniele da questa parte. Ma Daniele, quello che c'ha la barba. Daniele, io sono Cla, buonasera. Quello che c'ha la barba. E allora? Già ti ho visto. Ti ho visto studiando, ti ho visto, lo sai che noi ogni tanto ci mandiamo delle foto con Antonio e quindi mi ha mandato quella dell'ultima lezione che avete fatto. E studiando stai, sì? Già stiamo studiando, Cla, tempo permettendo tra sede e impegni in famiglia, sto mettendo in mezzo anche questa adesso. Bravo. Metti così. Hai un altro hobby da sostenere, ciao, va bene Daniele, ciao, buonasera, ben sentito, ti passo Franco, vediamo se ti sente, lo senti a Daniele o Fra? No, negativo, sento che sta parlando ma non capisco cosa sta dicendo, comunque non lo so se lui mi ascolta, un saluto Daniele, per me è negativo tirarlo fuori. Io già lo occuperai, buonasera anche a te. E sono in condizioni molto precarie perché ho un pezzo d'antenna che il vento gli ha fatto la festa. Poi sto usando questo 48 qua che sta funzionando a metà e sto cercando di cavarne piede se ci riesco. Cosa vuol dire sta funzionando a metà? Cosa fa perché? Questo è il 48 di Daniele Motrice e Pazzac là. In pratica funziona normale come adesso, poi quando rimetti le modifiche funzionano, bloccia sia il parlascolta che il beep, e vabbè ovviamente poi quando gira l'eco che si sentono tutte in lontananza. Quello è il maestro di quelle radio lì, è Gigi. Devi contattare a Gigi se te lo controlla, capito? Io e quelle baracchini così, no? Io ce l'ho il mio, l'Aran 48 modificato, si è pronto l'armadio, ma l'altro giorno l'ho tolto e l'ho fatto girare un po'. Anzi, l'ho messo io un po' dietro la scatola da me, capito? Va bene. Senti un po', contatta Gigi se te lo controlla, che penso che quella radio lì Gigi la conosca molto bene, capito? Va bene, no, qua il segnale è 9, già stai arrivando. Avanti Marco. Ciao Daniele, ben entrato. Io devo chiudere, dai, mangio qualcosa. Ci sentiamo, ciao. Ciao Marco, ciao. Fatti sentire, alle prossime. Ok. Fra, sistemato? No, lo sto sistemando. Non è stato mai aperto questo, capisci? Non è stato. Se non lo noto. Sto cercando di non aprirla, lo spiantore, in modo che mandarli dentro la cassa. Almeno guarda il piantone, una volta è tutto il circuito di preamplificazione che lo apri da sotto, c'è una vite, smonti quella vite e il piantone si stacca da solo, lui gira capo a terra e ne scende la capsula, no? Sì, no, non c'è la vite, c'è, le viti sono, vabbè, da sotto, sono due viti sono, che tengono il piantone, però qui non c'è altro niente, non c'è, c'è solo la frangia dove avviti le viti e basta. Però non lo voglio aprire, se non mi rimane a questo punto, ma magari riesco a mandarlo dentro normale, senza infili direttamente dentro, io ci riesco a mandarlo, adesso gli infilo un pezzo di coso e così gli rilevo il filo. Vabbè, no, io siccome mi si era mollato il piantone, ballava, ho aperto da sotto, ho spostato il circuito che c'è, sono le quattro viti e il circuitino, togli quelle quattro viti e sotto c'è la vite che stringe il piantone. Facilissimo, non è difficile. Vabbè, vedi un po' e poi gliela metti con un pezzettino di cotone ferma al centro, in modo che non tocchi da nessuna parte, se no ti crea quei problemi che ti stava creando, capito? Vabbè, fai pure allora. E quindi Daniele, ma l'antenna quella che avevamo piazzato noi, l'hai portata su e te l'ha spezzata al vento? No, Cla, questa è un'altra, la prima che ha avuto. E come si dice, però mi manca un pezzo di stelo, questa è la boomerang. Cioè il primo pezzo è radialino e ne manca il proseguo. Che è quello proprio direttivo. Allora quella bisogna ripararla. Bisogna ripararla. Ti ho visto l'altro giorno salendo in via Milano con quel camion che c'hai. Che sciuga, quanto è alta. E quella è tutta modificata la macchina. E allora, Cla, con quella che ci divertiamo ogni tanto. Oh, vai a fare rallycross. Di tutto, lì, l'ho fatta senza al VRC, alla scala piccata, a rendere fermentino, con l'ACI. Ah, sei iscritto, quindi vai a fare queste manifestazioni. Quella si arrampica, Quella non ce n'è problema, mi ricordo quando ero con l'officina turitana che andavo alla Sinara il martedì e il venerdì, c'era quella lì a Fornelli, quando arrivavo prendevo quella lì, una di quelle, di quei modelli proprio, quei modelli vecchi, la Land Rover, ma salivo sopra le montagne a controllare i vasconi, ma si arrampicava, sembrava un uccello. Allora, la mia c'ha 30 anni quella macchina lì, là. Sì, uguale a quella era, uguale a quella, però quella che usavo io aveva il cassone, capito? Era passo lungo, però con il cassone quello corto, perché mi serviva a caricare l'attrezzatura, capito, la cassetta elettrica, eccetera, sia che c'era a fare manutenzione in qualche pompa su in alto. Ma lo sai quanto? cosa li famo? Isso Maria Garaga, tutto in mezzo alle pietre, in mezzo al fango, non si fermava mai quella macchina. Già lo so, noi ci abbiamo lo stesso, quella a passo lungo proprio l'antincendio, è da lì che mi sono innamorato di questa macchina. E così come quella che c'era, non so se l'avevano demolita perché era vecchissima, la targata a Cagliari. Era una macchina che, una Land Rover che avevano preso dall'ESAF allora, capito? Era beige, tipo quel colore che c'è tu così, mi. E poi tutta zingata, mi. È tutta fatta in alluminio. Mi. E allora, lì il ferro ce n'è ben poco, tutto alluminio è, e dura anche di più, basta curarla bene. E infatti, rimaneva ferma lì alla Ginara a Fornelli, dove c'è il parco delle tartarughe lì nel piazzale, roba di acqua prendeva, quando andavo a prendere io era tutta piena di sale sempre, dava una passata di pompa, io una girata e metteva sempre in moto, e poi vabbè io sono andato via da lì, e non so se l'avevano demolita o era ancora lì buttata, cosa ne so, vabbè. Per il resto, a casa tutto bene, Daniele? Babbo, mamma, la signora? Tutti a posto, babbo è andato in pensione, finalmente ci è riuscito. Cazzo è una ora, eh? Detto direi che l'ho fregato, sono andato prima io di lui. Se lo sapeva prima si incazzava. E beh, conoscendolo sì, caspita, me ne frega 10 anni, glielo dico, vabbè, comunque, ce l'ha fatta, dai. Ascolta, è la bambina? Il bambino già, adesso ha già 6 anni, già tra poco va a scuola il prossimo anno. Ah, è vero che era bambino, sì, sto confondendo con Costa. Il bambino 6 anni, esso che pare la salire, pare, sembra l'altro giorno. E allora senti, è qua, che sta giocando. E fra un po' devi portare a donna, mi. Tra un po' anche a lui. Allora. Io ti intendi a la moglie, se no guai. Ciao Franco, più visto l'hai? Negativo, Cla. Lei è più visto e più sentito, ho smesso la circolazione. Anch'io. Siamo visti una volta da Vittorio, poi non siamo più visti. Non siamo più visti. Io non pensare che io mi impegno la giornata. Facendo, collaborando con l'impresa che sta facendo lavori a noi, mi sono sempre impegnato con loro, ma adesso mi domani mattina arriva un po' di materiale, dobbiamo fare un muro di recinzione, perché sta durando un tempo bello e quindi stiamo facendo questi lavori. E mi sto piano così, e se no sono sempre campagna perché anche io ce l'ho a fare, da finire, e se no è un casino. Però, niente, ti posso dire che sono tranquillamente molto ma molto rilassato. Ti credo, non devi fare più avanti e indietro. Lui è così è papà, è l'altra mattina, lui non vedo l'ora. E adesso lo stesso a casa, tranquillo. Registrato. No, perché poi Daniele era uno stress totale, capito? Non è alzarmi presto, io mi metto presto anche adesso, alle 7 sono già operativo. Però è che non ti rimaneva il tempo, anche perché io poi ero impegnato il sabato, la domenica, i festivi, qui non avevi mai una base di riposo vera e propria, capito? Invece adesso sono rilassatissimo, sto lavorando lo stesso, sto lavorando abbastanza, però molto più rilassato perché so che posso staccare quando mi pare piace e non devo dare conto a nessuno, tutto lì, così. E può fare la stessa cosa. Avanti Gianni. Buonasera a tutti. Sto provando un apparato. Come sta andando? So già cosa stai provando. Hai già provato nel canale 20 stasera continuo. Io te l'ho già detto. Per essere un portatile va bene. C'hai un po' la voce nasina, ma comunque abbastanza comprensibile, abbastanza buona. Ciao Daniele, ben sentito anche a te. Dopo tanto tempo. Ciao Gianni, buona serata, cordialità. L'ho portato intanto l'appaio, scompaio, Ma c'era sempre l'apparato, interessante è quello, ho detto, ma adesso ho venduto tutto. No, di questi ne ho due. È che ho risuscitato questo 48 in aria, le motrici a pazza, l'ha venduto prima di partire. Un po' di anni fa. Soltanto che come è rimasto fermo gli è sceso una sincope. E quindi non so cosa sia successo, perché misuro col test e per le prove, sembra che funzioni tutto. Poi quando devo funzionare fisicamente non funzionano bene. Vabbè, no, ma comunque quello funzionava bene. Io l'ultima volta che ho sentito a Daniele con quel baracchino lì, ce l'ho anch'io uguale. Novello vecchio però, Colt, Clavan 48, funziona benissimo. Ieri ne ho provato 5, c'era con Franco, c'era andato la sera, stavo provando tutti i baracchini che ho, li ho messi dentro la scatola. Ne ho due, c'ho il Typhoon 2 e l'87, che sono Colt anche quelli, sono con lei, come funzionano benissimo. Poi c'ho il 3009, sono postato il 3009, il Ranger che funziona bene lo stesso. Però li ho messi tutti dentro la scatola a Daniele e li ho portati via qua, perché ho smontato tutto, c'ho una base solo con pochissime radio, perché devo traslocare tutto in campagna, capito? E Gianni, attacca il baracchino tuo, io bugazzino che sto portati. È qua, claro, devo... Che ogni tanto qua sacco, piazza, e faccio perché ho poco spazio, no? Non sono più come quando ero su da mamma. Poi ho fatto i lavori e ho staccato tutto nuovamente. Adesso piano piano che ho finito la camera dei bambini sto cercando di avere uno spazietto mio. E come avevo fatto io, lo stesso, quando ero a Pasqua mi avevo creato uno spazio nella stanza dell'aria. Però poi è chiaro che non è puoi stare lì. Qua è un'altra cosa, c'ho la mia stanza, campagna lo stesso, già quasi pronta, sto finendo l'impianto elettrico. E poi ci trasferisco tutto lì. Vabbè, poi te lo chiedo anche Gianni. E Gianni sta cambiando baracchino, sta usando un portatile. Ho detto, ma ti sei trasferito sopra dove avevamo messo l'antenna nella ringhiera, lì abiti? No, Cla, giù al piano terra. Ah, ecco, piano terra, perché al primo c'è, sì è vero, al primo c'è tua madre e al secondo c'era l'altra casa. Cava, c'è piano terra, al primo c'è mio zio, poi al secondo c'è mamma e c'è la mansarda dove abbiamo messo l'antenna. E non te ne sei andato lì in mansarda, piccola era, mi pare, no? Allora, era tutto da fare lì, Cla, e poi non ci usciva la camera dei bambini. Sì, mi ricordo che c'era un lavoro da fare, poi non era grande, e vabbè, a piano terra già sei bene, già è grande quello. Sì, ho finito anche quella poi, non è più come era prima, che sembrava uno sgabuzzino. Qua diciamo che c'ho due, tre camere, dai, più il bagno. Ehi, già. Ecco qui. È anche il bubar. Ciao Daniele, questo meglio qua. È molto meglio già questo, a voglia. Vabbè, ma anche quello lì già va bene, perché io mi ricordo che una volta l'ho attaccato quando sono andato a pescare la patata, ma sulla patata di mia moglie. Praticamente siamo andati con Mario Massimo a pescare. E da patata parlavo tranquillamente con Sasha, diciamo, con l'artiglio quello magnifico che sempre fa parte della confezione dell'SOS e dell'apparato che ho io. E niente, andava benissimo. Sacca Baro che sei sciatto. Io stavo per dire anch'io, Cla. E forse non se ne è accorto perché stavo usando male il linearetto con quel portatile. Però qua è saturo, se tiene quello lì attaccato è troppo forte. Esatto, no, quando attacco con questo devo passare in basso. Devo passare in basso. Ecco, bravo, non tocca, se lascia stare tutto così, sei 9:20, la radio è perfetta. Avanti Daniele, quindi insomma hai sistemato tutto, dai. No, perché sopra, in quella lì dove avevamo messo l'antenna, peccato che c'è quella mantovana. Se no lì si poteva mettere un'antenna diversa, capito? Sempre attaccata alla ringhiera. Infatti, lì il problema era quello, Cla. Adesso vado a riattrezzare un po' la soia, dai, cosa riesco a fare, vediamo già. posso ripiazzare e fare un po' di aggiornamenti anche qua. E lì bisogna trovare un'antenna un po' più piccola che non dia fastidio alla mantovana. Siamo già tre codi casino avevamo fatto con Franco, mamma mia, capito? Oppure mettere delle staffe col tubo telescopico, no? Saldate alla ringhiera, una sotto e una sopra, come avevamo fatto lì, in modo che si rientrano, si piazza l'antenna, poi si allungano le staffe e si stringono. Si può fare comunque quel lavoro, e viene anche un bel lavoro all'angolo, però fuori dalla mantovana, capito? Vabbè, quando decidi già lo sai, fammi un fischio e già lo troviamo il sistema, Daniele. Ma adesso il radiale non ce l'ha? No, già, non c'ho più quell'antenna, quella l'ho levata. Sto usando la boomerang che usavo all'epoca, però è successo, è diventata mini boomerang perché l'ultimo zero, diciamo, il vento l'ha rotta, che è vecchia, capito? Sì, io l'ho detto, ci sono stato sospetto, per mettere un'antenna senza radiare, non ci dà nessun problema, e vanno bene, invece quelle autocostruite stavano andando molto bene, ce l'ha fatta il studio, ce l'ha fatta la gente. Lì no Gianni, lì è il problema che c'è la mantovana, non c'è la ringhiera del poggiolo e poi c'è un metro e mezzo di mantovana, come fai a... Bisogna allungare dei tubi con delle staffe, dei tubi telescopici, uno sopra e uno sotto, dalla base della ringhiera, quindi lato alto e lato basso, dei tubi telescopici con delle staffe girate al contrario, e allora si infila il tubo e si allungano per farlo uscire al di fuori della mantovana, se no si può piazzare di antenna, no. Nessun tipo di antenna tocca proprio l'antenna, non fa, la devi mettere tutta corta a 45 gradi. Ma sul tetto non si può mettere? No, sul tetto non si può mettere. E poi l'altra soluzione è mettere nel terrazzo di mamma e scendere di un piano e metterla dall'altra parte. Lì ti ricordi, però sei troppo chiuso, Daniele, sei dentro quella via, da un palazzo a destra, a palazzo a sinistra. L'unica soluzione è quella che ti ho detto io quando decidi, senza mettere un'antenna pesante, capito? Un'antenna leggera, anche con tre radialini, e praticamente si saldano un metro e venti di tubo, dove fai 60 e 60 telescopico a rientrare, ok, con in punta la staffa girata al contrario per infilare il tubo in verticale, e si allungano, prima si restringono, si mette il tubo con l'antenna e poi una volta che l'antenna è montata, che non sia molto pesante naturalmente, si allungano i due tubi e si stringono, basta. Quello è l'unico sistema che puoi adottare per uscire al di fuori della mantovana. Guarda, adesso vediamo già, primavera, bel tempo, ti mettere in moto un po' di roba. Tu quando decidi non c'è problema, mi chiami, abbiamo tutto, saldatrice, tubi, ne ho proprio uno da 2 metri, telescopico, si taglia in due, si saldano, si fa l'altro buco passante per sfilare il telescopico e tu si appicchia. La staffa naturalmente, siccome è dritta, si gira al contrario per essere a posizione verticale, si infila il tubo dentro e tu sei che mica con nada, dicono a Cagliari, vai Gianni. Perché a parte è un casino a salirci già e poi non c'è punto dove potete ancorarti bene, capito? Sì, ma quello che si trova, basta fare un disco di cemento, come molta gente ha fatto, e la terra tiene. Fa disco di cemento sopra, a tegole. Cazzo, un cemento sopra le tegole metti già. E io glielo sto chiedendo se a tegole o no, non lo so se è ferrata a tegole. La conosco a memoria quella casa, è una tegola e poi Sfiovenza, proprio che c'è una mantovana, c'è il tetto di Sfiovenza a tegole a 45 gradi per 4 lati e c'è la mantovana che sfoggia 1,20 m praticamente a coprire il poggiolo. Beh, tu non ci crederai, io con il dottore ho visto una cosa, per far passare il tubo dell'antenna ho buccato la mantovana e l'hanno fatto passare in mezzo. E io ho buccato anche il cemento armato, ho visto bucare, non ti preoccupare. Però quello è da pazzi e poi lo zio a lui le stacca la testa, le spezza l'osso del capocollo. Ah, Daniele, non lo buchi la mantovana, oggi tuo zio ti aspetta, lo so, il capocollo. Se mi fa bene, cla. Certo, mi ricordo che stavamo montando l'antenna, a tua voce era guardando, non si preoccupi, è tutto sotto controllo, sì, sì, questo ragno che si vede nella strada. Abbiamo messo la mantova a turbo per poterla non far appoggiare alla mantovana, no? Avevamo tolto tre radiali, tre o quattro radiali avevamo tolto, quindi era 45 gradi questa mantova, brutta come la minchia, con questi radiali che sembravano quattro cosi di polpo. Mamma mia, te ne metti, Daniele? Ehi, acqua! Cesso, e che fine ha fatto questa mantova? Poi l'ho venduta già. Ah, l'avevo venduta. La mia è mancano tre radiali. Se voglio li rifaccio, non ho fatto più una faccia dopo. Senza radiale non la posso finire. Ah, mandala in pensione, io l'avevo comprata nuova. L'avevo comprata nuova, ho recuperato i piantoni, i radiali, tengo in scorta. Ma occupare già di la nuova. Compra la mantova a turbo, la ci va, una domenica mattina si stacca tutto e si mette la mantova a turbo nuovo. Oppure guarda se trovi la mantova a 5, e quella te la tiene a pezzi di ricambio, o già, oramai. No, la mantova è rispettosa, no? Anche di difficile, ci sono lamentati che si stacca la mantova, che qua, che là. La Firenze 2 o la mantova a 5? No, già l'ha avuta tanti anni, quella lì, sempre appesa di là a temperie, vento e via dicendo, no, com'è un problema? Ma anche io l'ho avuta, ho perso qualche radiale, ma non è che si sono staccati i fili, c'era arrugginita la piastra di sotto, ma niente di che. Comunque io ho la mantova 1 già, ti ripeto, me l'avevano portata da fuori, proprio la mantova. Prima avevo la 5, adesso c'ho la 1 e grazie a Dio c'è già, sono 7 anni qua mi pare, c'è già 7 anni, mai avuto un problema, mai avuto un problema e sono naturalmente le migliori. Guardi, io qualche anno ce l'ho proprio in 15 anni. E ho capito, anche a me la prima mi ha fatto più di 15, poi l'ho lasciata attaccata e l'ho comprata nuova per via Pascoli. Praticamente poi quella via Pascoli l'ho portata qua, l'ho messa nuova perché era nuova, cioè aveva 2 anni, e quella lì l'ho demolita, l'ho tolta praticamente, tutti gli stili centrali, le cose che servivano l'ho volata a Fabrizio per fare una verticale, capito? Però l'antenna non serviva più. Della mantova a turbo sono uguali, il diametro è quello, vanno bene, e il problema è il piantone, è sbagliato, a me non piace quel sistema di capito, mentre quello della mantova 5 e la mantova 1 sono, vanno molto meglio. Riprendi, Daniele. Cavarava, oppure Ricla, l'altra soluzione se mi fa entrare l'altro terrazzo, diciamo, nella porta a fianco a quella della mansarda nostra, dai, e fammi mettere un palo lì anche. No, le soluzioni ce n'erano, però in quel periodo lì non è che c'era un po' di maretta, capito? Però ti ripeto, se tu te la vuoi piazzare nel tuo poggiolo, l'unica soluzione è nella ringhiera alta, tubo saldato, telescopico che entra e che esce con la staffa in verticale, e sotto l'altro tubo, che bastano 2, tanto lì non devi sollevare molto, devi sollevare 2 metri, capito? Giusto per uscire dalla mantovana, e basta, un'antenna piccolina, tipo quella che c'è Antonello, tipo quella che c'è Marco, che vanno molto bene, leggere, così, e tu sei a posto, Daniele, capito? E viene anche un bel lavoro, magari 2 tirantini, da una parte all'altra della ringhiera, non dà neanche fastidio. E fa fare 2 staffe che superano la mantovana, saldi, poi come fai a piazzare l'antenna? Ci vuole il telescopico. Hai capito perché vuole il telescopico? Perché tu le zaffe le saldi, il tubo lo saldi nel piano superiore, nel piano inferiore della ringhiera, ad angolo, no? Dove c'è l'angolo che è più robusto. Ok? Metti in deco la zaffa già girata al contrario perché deve essere a polarizzazione verticale. Una volta che è tutto saldato, tutto pronto, cosa fai? Il telescopico lo porti all'interno, infili il tubo, piatti l'antenna e poi non fai altro che spingere i due telescopici e stringerlo. Se no come fai a piazzare l'antenna, il tubo, una volta che hai messo le tappe da 1,50 m? Cosa mi vuole l'elicottero? L'unica soluzione è quella, ma ti ripeto, era una cosa che si poteva già fare a suo tempo, perché abbiamo piazzato io con Franco quell'antenna che aveva lui. Però ti ripeto, abbiamo dovuto fare un casino nero, ma un casino veramente, era da pazzi. Da pazzi perché rischi anche di farti male, mentre invece con i due tubi telescopici, o due scatolati telescopici, uno dentro l'altro, non è? Io parlo di quanti sia telescopico. Le staffe già montate, si fila il tubo, si piazza l'antenna, proprio tirati in dentro, nel parapetto della ringhiera così chiamato, una volta che l'antenna è montata tu non fai altro che allungare i due telescopici e stringere, l'antenna è montata. Così è Daniele, Gaiel. Così è, purtroppo qua è un macello, è il palazzo più basso e gli altri sono tutti giganti. No, ma tu te la piazzi, dove abbiamo piazzato l'altra, nella tua ringhiera, nella mansarda. E si tratta solo di fare questo lavoro qua con lo scatolato telescopico e tu sei a posto, Daniele. Viene un bellissimo lavoro, anche perché facendo manutenzione, staccando CPL, cambiandoti il cavo, non fai altro che mollare i buroncini delle due piastre telescopiche, te le porti al parapetto, sfili, abbassi l'antenna a destra tua e ti fai tutto quello che vuoi fare. Esce un bel lavoro. Ho fatto un amico di Alghero io. Cava. Ascolta, Clava, quella radio com'è di questo apparato? Sempre buona oppure pessima? È buonissima, Daniele, no, non pessima, è buonissima, è 5 perfetta, non c'ha nessun problema. Oh, che strano, va. Non riesco a capire che malanno abbia questa radio. O si è bruciato qualche componente o c'è qualche filo che sta facendo... Sta facendo e non facendo, faccio contatto. Te l'ho detto che devi fare, quello, chiami a Gigi. Vai da lui già sa veramente le mani con le radio così, perché il mio lo stesso. Mi c'era bruciato, non mi ricordo, forse le lampadine, E io con i baracchini non c'ho molta. Capito? Allora lui me l'aveva cambiato, il mio uguale a quello, preciso identico, il mio era di Gigi, quindi preciso identico. Ed è tutto modificato lo stesso, capito? E ce l'ho ancora, ho fatto girare ieri con Franco di Giosciu, ho fatto girare avanti già, danni al telefono, c'era anche Franco, vediamo se ha terminato, Franco alle brigi con questo MB più 4. E sei sempre là, Daniele? Sempre al 118? O al 119 sì adesso? Sempre lì sono, Cla. Sempre lì. Vado, piano piano, passetti a passetti, stiamo andando avanti. Ehi, vabbè, ma vi avevano stabilizzato poi? O siete sempre così? Adesso c'è tutta una questione da risolvere anche per quel settore. Già l'hai visto, l'hai letto. I casini che stanno facendo, tagli contro tagli. Poi c'è... Tipo i pastori, no, arrivi a un accordo, poi fai la tregua e poi di nuovo tocca a Pao. È un casino, però già c'è Salvini, Salvegna, oggi era Sassari, ha detto che mette tutto a posto lui, fra poco sdraiatene tutti i cucardi sotto al ponte di Rosello. Oh, se continuiamo così, Cla. Oh, yeah. Ma il casino nostro è nato perché da quando è uscita la storia di questi elicotteri a destra e a sinistra, la spesa è andata oltre e vogliono essere pagati in questi mesi. E quindi noi dobbiamo togliere macchine. Sì, hai visto cosa hanno fatto adesso? Il reddito di cittadinanza hanno dato, adesso danno il reddito di cittadinanza che non ha fatto un cazzo dalla mattina alla sera, capito? E mi leva un pensionato, ha lavorato per 35 anni. E più per recuperare i soldi per pagare vendici di cittadinanza hanno tolto gli 80 euro che aveva dato, che aveva messo Renzi, capito? A me mi hanno tolto subito, immediatamente, dal 1 gennaio, 80 euro in meno, hai capito? Però danno 780 euro a chi non ha fatto un cazzo la mattina alla sera. E allora, se non sei attento, ah sì, bravi, bravi, fai a destra, fai a sinistra e poi i soldi bisogna prenderli da qualche parte, non è che dai, dai. È logico che funziona così. L'entrata ce deve essere. Ma a me io non devo andare a votare a nessuno. Sono anni io che non vado a votare, che io me la futti nulla, non credo più a nessuno. Quello che mi stanno dando, me l'ho lavorato per 42 anni, quindi non posso girarmi le balle. Continuo a fare quello che stavo facendo, a rubare a destra e a sinistra, per andare a mangiare ai cani morti che non hanno fatto mai niente la mattina alla sera. Capito? Perché intanto adesso danno i soldi anche ai tossici, così diventa ancora più difficile vivere. Vabbè, facciamo perdere, siamo in cazzo. Gianni, veglia fra, perfetta, fra, perfetta, non hai rumori, niente, è chiaro, se la capsula toccava il piantone, ti crea problemi, fischi, controfischi, inneschi, me l'hai messo un pezzettino di cottone per tenerla ferma in alto, ma non la intasare molto, la capsula non la coprire, c'è da essere un pochino di cottone, perché, ti spiego, quella praticamente dove, chiamiamola sede, dove tu metti la capsula, quella fa da cassa, capito? Più cottone le metti, più ti chiude la modulazione, perché arriva tutta lì la voce, no? Quindi se è leggermente aperta, basta che la capsula sia messa bene, però che ci sia un po' di spazio per rimbombare. Sì, la modulazione è perfetta, perfetta. Io nei miei sono così, praticamente gli avevo tolto una retina perché era troppo chiuso, e all'interno ci ho fatto una sede proprio piccola dove innesta la capsula con del cottone leggero, e è vero che rimbomba bene, te l'ho fatta sentire ieri, no? Quello che hai sentito ieri con Superstar era l'MB più 5, capito? Sono entrato, sono chiamato. Lasciala così comunque, fa che va bene. Sì, già, ho visto. Buonasera, Franco, adesso c'è sempre tanta gente, là. Mi hanno chiamato di brutto e quindi non ho potuto manco affacciare. Vieni di nuovo, aspetta. No, l'altro Daniele. Avanti Daniele, lo senti a Franco tu? Sì, io lo ascolto. Non fortissimo, già la radio la riesco a tirare là fuori. Però lui mi sa che a me non mi ascolta. Non lo senti fatto a Daniele, da via l'Italia. Non lo capisci? So che c'ha una boomerang. Ha una boomerang. Capito? Aveva l'antenna grande, ma l'ha tolta perché era estratta nel poggiolo, proprio a culo di scimmia. Da via l'Italia ci arrivi, sì. Non c'è problema. E arrivava molto forte anche con l'altra. Però era una posizione lì bisogna fare, quando decidi te l'ho detto Daniele, un fischio, la salvatrice, andiamo da teleporotologi, prendiamo due scatolatti, uno grande, uno piccolo, anche della misura della ringhiera, così viene un bel lavoro, le scatolatte la stessa con la ringhiera, mi ricordo, si appoggia, si fa il telescopico, capito? E si piazza l'antenna. E viene un bellissimo lavoro, qui si è a posto. Cava, un attimo qua e faccio bianco un secondo. Ehi Daniele, aspetta che avete parlato in due. Ehi Daniele, va bene, già sono qua. Cosa hai detto fra? Non c'è punti e contropunti. Cosa arriva a Ponti? Là si arriva ai genovesi di Ponti, lo stanno costruendo nuovo, tu lascialo così com'è, il microfono che è a posto, io te l'ho detto, non l'ho mai modificato, mentre più 5 che avevo preso dal Gigi, quello è modificato, ma modificato bene, c'è una resistenza lì, insomma un lavorettino fatto, spinge molto di più, infatti lo tengo molto basso, però il più 4 che ho è originale, non l'ho mai toccato, assolutamente, ho tolto solo una retina, e gli ho messo del cottone, ma leggero in mezzo alla capsula per togliere quel metallico che c'aveva, capito? Si mette apposta per quello lì. Ma tanto ben si ricorda che mi è più 5 da Fusaro. 50 a me me l'aveva data 55 euro mi sembra. Vabbè, lì hai avuto culo, però non è un microfono che costa tanto, costa 40 euro, 45 euro il più 4 e il più 5 mi pare che costa 55 euro, 60 euro. Però ti ripeto, qualità prezzo sono dei microfoni eccezionali, io ce li ho tutte e due e sono perfetti. Capito? Va bene. No, questa è perfetta, fra, questo è un ottimo lavoro. Perfettissima, non tocca, lasciala stare così perché va veramente bene. Io non ce l'ho va più nulla che non faccio più nulla. Se tu immaginati che ieri due scatoloni ma pieni, una parte è tutta microfoni, ci sono 2 più 4, un più 5, 3 più 3, Savelta, tutti i microfoni normali, tutti i cavi di alimentazione dei baracchini, e nell'altra tutti i baracchini, tutti messi dentro, di punta, tutti ben coperti, sigillate le scatole e portate via. Capito? Poi ancora c'è l'Alan 48, vabbè, l'ho lasciato qua perché quello è meglio tenerlo qua, che è in concessione, e basta, adesso ci ho portato via tutto. No, un mare di baracchini dentro l'armadio, senza contare gli strumenti, te l'ho detto, mi ce n'era uno nuovo dentro la scatola della ZG, mi pare che il 501, una cosa del genere, nuovo, mai idratato. No, 6-7, Santiago 7, Radio 5. Invece così sono già 30 e passa. Esatto, così è favolosa adesso, fra, aumenta anche la modulazione, lo sai, sei passato da 7 a 9, la radio perfetta, anche più alta di amplificazione, senza nessun disturbo. Certo, il 737 funziona, pensavo che non funzionava più, era sempre dentro la scatola, e stasera mi ha salito il pallino di portarlo fuori. No, adesso funziona bene, poco fa non ti funzionava perché avevi il rientro di radiofrequenza proprio dalla capsula che stava toccando il piantone, fra. Proprio quello era. Io me ne sono accorto perché c'era troppo filo usciva dal piantone. E io cos'è questo filo? Ho tirato così, come era capito di nuovo a me, la buccia c'è sopra. Anche a te, è chiaro che ti faceva rientro. Perché la modulazione usciva, perché già esce, però stava toccando al piantone e ti faceva tutto quei fischi. Adesso è perfetta, fra, ma perfetta, sembri col C80. Ehi, quando mai? Un barattino vecchio. Mai, ti registreggi e ti vuoi ascoltare, sembra col 680 ti ho detto, segnale è uguale, 69 con picchi a 95 e la radio è perfetta, bella corposa, bella amplificata, come 680. Ehi capo, come ho 10 minuti adesso non lo faccio, mi metto il valvolare, che quello là tira di più di questo, a vedere. Bella, un bel lavoro fra fatto, sì, adesso è perfetta la modulazione, prima era tutta fischi, inneschi, capito, adesso è perfetta, tonalità medio-bassa, c'è gli acuti giusti, vabbè, il segnale è ottimo, da 7 si è andato a 9 quasi più 5, come quando moduli con C80. Sì, già lo vedo che sta spingendo un pochettino, l'ago me lo spinge un bel quando parlo, invece prima faceva fatica a muoversi. E anche io volevo la gapsola all'interno, è chiaro che non stavi, le corde vocali non stavano spingendo sopra il microfono, stavano spingendo sopra il piantone. Però non mi saranno quello che mi deve dare questo linearetto, perché sono a 30 watt, 30 e 30 watt, e dovrebbe dare di più. Con 2 watt e mezzo non è che puoi avere tanto, e quel lineare tu immaginati che sino a 8 watt. Per esempio, io con l'Alan 48 normale, perché ne ho due, c'ho l'Alan 48 normale e l'Alan 48 Colt. Con quello normale, che ha 7 watt da, perché Gigi me l'aveva appena toccato, me l'aveva 4 prima, me l'aveva messo a 7 watt, 7-8 watt, da 80 watt, 75-80 watt, capito? quindi è giusto, se ti danno poco ingresso prenditi quello che dirà, ma i 30 watt che ti sta dando, aspetta, sei salito da 7 a 9. Un bel salito, un bel, il confronto è salito un bel, perché da 7 a 9 è andato, vabbè, già funziona bene. Poi domani mi compro la batteria per le comasse nella Toyota e vediamo un po', ti faccio sentire quello. Quello quando c'è la batteria carica è una bomba. Sì, ce l'ho anche quello lì, te l'ho detto, c'ho i più 4, i più 5, Savelta, lo Shure, il Terne più 3 e il Nagio, sono tutti dentro la scatola adesso, sono tutti dentro la scatola, non vi raggio più, no, che ci ho fatto stamattina, ho portato via, ho fatto via tutto, ho fatto via anche altra roba che c'era, l'altro pannello, l'altro piano della scrivania, ho fatto via altre due radio, V e U, cioè il 780 e l'altro che non le stavo usando, quindi anche quelle portate via. Ho ottenuto il 430, il 440 e l'820H, basta fra, e così sono già, diciamo che ho già smontato quasi tutto. Adesso l'unica cosa è appena termina Andrea Oceano di fare i lavori, che sta finendo una bellissima tettoia, chiamiamola così, una bellissima veranda, appena terminato mi dà una mano, ne abbassiamo il sistema, il tradicetto, smonto le antenne e lascio solo la mantova, in modo che poi quando è tutto fatto ci metto poco a smontarla, capito? Se no avevo una ghiera a smontare tutte le antenne, metterle dentro le scatole, pulirle, farle, capito? Va bene. Piano piano, basta, non è detto che devi fare tutto in una volta, piano piano, quando scendi un po' ogni volta che scendi, non te ne accorgi niente. Io quando abbasso il sistema mi smonto tutto. C'è la 3 elementi e la 5 elementi, ma vabbè, c'è anche l'altro sistema più piccolo, lì c'è la monobanda dei 10, le V, le U, il segnale di asilo, anche dimenticato mi era, vabbè, comunque, è tutto il cavo, devo recuperarmi perché mi servono, sono tutti nuovi, a Camille ha messi 2 anni fa, neanche, un anno e mezzo, capito? E poi devo staccare il commutatore elettronico, quello della Meritron, e già c'è lavoro da fare l'uscita. Purtroppo si è molto in alto, quindi piano piano bisogna tirare, staccare da giù, piano piano tirare tutti i cavi su, arrotolarli, farli, mettere le fascette, bisogna recuperare tutto, la vita roba nuova, tutta roba nuova. Vabbè, piano piano già. Non avevamo tempo. Ecco, vedi, adesso ce l'ho a un braccio, ce l'ho lontano, a un braccio. Caspita, questo Twitter non è giusto, però non è possibile che tu arrivi 9 qua, perché con l'altro ne arrivavi 8, 7, 8 e qua 5, no? Lo Twitter non si va un cavo. Io quando c'era la strada. Guarda, sì, e allo Twitter. Però non è giusto perché tu mi arrivi più di 9. Non fai niente, cioè, no, non ricordo se è 9 e 5. Ma è strano, perché a cosa mi dà da più a nominare di meno? Cosa ti ha di meno? Io a Franco lo vedo la fasciua. Non pensare che non lo vedo. Franco mi arriva, così 80 mi arriva a volte anche 9,10, 9,5, 9,10. Infatti il mio segnale col 4,30 e col 4,40 è quello, 9,95. Io già non sempre 9,5. Ho fatto trovare un apparecchio. No, è il mio Twitter, non sei tu Gianni. Lo Twitter di questa radio, quella è una radio vecchia, è quella il Midland, quello vecchio, con la base. Non è colpa vostra. E questa radio che c'è lo Twitter sballato. Ruggiamo, abbiamo un altro. Gianni, quanto ti sta arrivando? A parte che, vabbè, lo smettilo, è preciso. Quanto ti sta arrivando, Gianni? Gianni arriva, sì, qua. 25. Quindi è proprio sballato il coso. Sì, sì, sì. Gappa. Va bene. No, tu adesso agganciato, perché il mio è preciso, quindi arrivi più o meno qualche decibel in meno rispetto al C80, però sei agganciato e sei 9, sei 9, prima di 7, quindi il mio è a posto. Vabbè, io adesso sto andando col 440, adesso domani vediamo se porto via anche il 430 o porto via in campagna. Stamattina ho portato via due scatole di baracchini, ma baracchini giri, mi li ho provati ieri con Franco, uno per uno, ma uno meglio dell'altro. Hai visto il Typhoon 2 o Franco? Come rulla con l'Ecco, quello è modificato, anche la 87 è modificato. Ehi, gli assistenti che è modificato, che è perché non è per rullata, e poi anche se parli piano lì e dice gli altri. Belli sono tutti e due, veramente eccezionali, dove rulli. Ne avevo tre, il 3009 Colt l'avevo venduto, la Gianni non lo voleva, vabbè lui ce l'aveva già, quindi averne due non serve a niente. Quello l'ho venduto a un camionista che me l'aveva chiesto, amico di Massimiliano, e anche quello era molto bello. Io ne avevo quattro, perché c'ho il 48 modificato che avevo preso dal Gigi, poi il Typhoon 2 e l'87, tutti e tre modificati i Colt, poi c'è il 3009 modificato il Colt, e poi c'ho l'Uranus, il Ranger, il 3009 normale e Brufish, Maria Gara. Vabbè, sono tutti dentro la scatola, ho fatto in campagna già stamattina, quindi è una scatola piena, ma una scatola da 1,20 m, alta 80, tutta piena, il microfono era attaccato. Niente al volo. Ha giunto una lunga fotografia, ha detto, ma quanti ne hai questo microfono da tavolo? Ho mandato la fotografia, 18 ne ho. Ehi, l'avevi mandata, ehi. E tu mi hai detto, cosa vai, un negozio? 18, tutti. Il più 2 da tavolo, quello grigio, quello celeste, il più 4, il più 5, lo Schuller, Savelta, SBE, Ischumayaga, tutti dentro le scatole, c'era l'armadio pieno, tu immaginati che l'armadio che c'io Giulio già l'ha visto, che tra l'altro le piace pure perché è un armadio vecchio ma nuovo, veramente in legno, e quello devo portare in campagna. Il sotto, vabbè, c'è la mia roba da lavoro ancora, che anche quella deve sparire. Mentre sopra, che è a due piani, no? Ed è pannellato. C'è tutto imbaccato da Robicio Rivera, lo bannello. Vecchio. È bello, a me piace quello, il 2, quello grigio palmare, bello quello. Sentito, esce una meraviglia. Non hai sentito, non te l'ho fatto sentire anche l'altro, quello grigio da tavolo, il più 2, perché c'è quello grigio e quello celeste. Quello grigio era della linea Le Craft, figurati, che poi è un Turner più 2, però è datato Turner 251 si chiama, mentre quello celeste invece è il Turner più 2 proprio. E poi quelli da palmo, perché c'è anche quello da palmo, il più 2. Ho detto una scatola, ne ho portato via, una scatola. E non so cosa farne, infatti te l'ho detto. Ho già fatto un blocco di baracchini con microfoni tutti da tavolo adeguati. E l'ho fatto mettere da Massimiliano in vendita, proprio per toglierli da mezzo ai piedi, ma svenduti, veramente svenduti. Proprio per non tenerli in mezzo ai piedi, perché non voglio avere più niente. È troppa roba che non serve a niente, nel senso che è roba buona che però rimane ferma e alla fine poi si rovina. E quindi ho fatto già un blocco. Poi i microfoni, vediamo, c'ho un carissimo amico di Milano che li vuole, che è collezionista, ma a parte li avevo già mandati l'anno scorso, ma ne avevo una trentina, ne avevo tenuto una quindicina, poi altre tre mi sono rientrati, due o tre li avevo dati a Roberto Quadrato a collezione. Ne avevo uno americano, verde militare, fra, tipo MB più 4, no, tipo TAM più 3, così, stessa sagoma, però colore militare, verde militare, originale americano. Cazzo, bene, sono quelli. Tu c'hai anche lo sugar, c'hai, da capo, ho visto che è bello. Sì, è bello, ma è un barragione, fra, è un barragione. Tanti anni fa, quando avevo fatto la base, ho una foto ancora, praticamente una base era solo radioamatoriali e basta. L'altra base era proprio 27, quindi lì c'avevo il ROIS, c'avevo il console 2, il console 1, avevo quanti base, guarda, li ho fatti tutti a Capri 2. Se senti a luce li ha tutti in garage, ma tutti belli, ne avevo tre o quattro cassoni in ferro, il coso, avevo il Sommerkamp, avevo un sacco di re, ed erano tutti da una parte, proprio la parte della 27, dove li usavo anche, poi alla fine, cazzo fa, l'ubiuvaro, mi si mangiava l'ubiuvaro, si vedeva da sotto tutto pieno di polvere, quando giravo dietro, cazzo, c'era anche la lana. Alla fine un giorno mi sono rotto le balle e ne ho tolto tutto. Chiamata Gianni, tu le vuoi le radio? Vieni, portati via tutto. E ne ho dato una parte a Gianni Capri 2 e una parte l'ho data a Roberto Quadrato, compresi anche i miei microfoni. E non ho tenuto più niente, li avevo fatti fuori tutti. Uno ne avevo, mi pare che era un Inuit 50-24 base, che avevo dato mi pare a Marco. L'unico che mi era rimasto era quello lì, sempre cassone in ferro celeste, molto bella come radio. E io mi sono tenuto il DAC e tutti questi baracchini veicolari che, ma carità, bugati tutto, boh, finito. Sono rientrato. Alla fine non facciamo niente per quanto questa radio, come facciamo? Dai, facciamo una batteria, dentro la telecomunicazione, e io difendo, ragazzi, numero 1. Adesso la controllo. Ehi, ma Fran, consiglio a te, non lasciare batterie dentro i microfoni, perché io in quei microfoni proprio ho tomato la foto, mi ho dimenticato una di toglierla, ma ho oscillato tutto pulire con la trelina, ripristinare tutto, si era seccato tutto, capito? Perché con l'andare del tempo poi la batteria si scoppia e ti fa un casino nero, non lasciarne mai batterie, se lo usi va bene, se non lo usi io ho tutti i microfoni senza batterie puliti e messi a posto. Daniele, ci sei? Cava, sono tornato. Io ci ho portato una famiglia McLaren, bomba a bomba, sono scendato a vento, c'erano batterie e due accendi. Sì, già, ti ricordi? No, non ero con te, ero con Franco, Califfo. Avevamo comprato quelle che si attaccano in testa da povero forbice, mi pare avevamo pagata 25 euro. Proprio l'altro giorno che sono salito su mansarda ho visto la scatola con tutta la roba da pescare, dai, quella che dove sono ami, piombe, tutta quella roba lì. Ha detto qui, esci da pizzo perché stavo mettendo a posto, sto buttando via la roba che non mi serve per poi non avere molto tempo per stare a pulire e fare. Cazzo, apro e dentro ho trovato questa pila, sono andato a accenderla, non accendeva, ho detto ma esce, saranno. Non ci saranno batterie, apro già e c'erano le batterie dentro tutte sciolte, la giubilata si è aggiornata tutta la mondezza, compresa anche la pila, un peccato, era della Daiwa. No, io ce la metto a costo 70 euro per il io ci ho buttato tutto, era tutto sciolto, tutto incollato, tutto brava via, io ho lampato il tutto, ho fatto pulizia e ho lasciato la roba necessaria, visto che c'erano ami, piombi, filaccioni già pronti, galleggianti, cosa così, e il resto ci ho buttato tutto, peccato perché era nuova, magari era anche accesa, ce l'ho messa accesa, ho recuperato gli elastici che possono sempre servire, il resto da lampato il tutto. Va bene, avanti Daniele. Cava, va bene dai signori, se ne approfitto, vi saluto, che ho alcune cose per sistemarmi qua. Ce l'ascoltiamo tra quanto alle prossimine. Daniele, ci sentiamo, ciao, buona serata. Ciao Daniele, un abbraccio grande, saluta mia babbo e a mamma. pensione. E dille, adesso glielo puoi dire che l'ho fregato di un anno. Ciao, fatti vedere se sei in zona, mi fa piacere. Va bene, sarà fatto. Di nuovo, dai, salutoni circolari a tutti, dai, buon proseguimento di serata. Ciao, ciao, Daniele. Fra, riprendi e io vi lascio perché sono le 8 meno un quarto. Che purtroppo non sono qua, mi devo occupare del cane. Che non gioco in campagna mi dimenticheggio. Perché fa così bene che a volte manco se lo vedo. Va bene, dai, vi saluto, grazie alle due chiacchiere a tutti e ci sentiamo. Se coincide a domani, se no alle prossime. Riprendi Fra, fai girare. Ehi, capo, dai. Ehi, in campagna già lo puoi... Nel cortile già lo puoi scappare, già può fare da solo lì, può fare tutte quelle cose che deve fare lui. L'unica cosa è per dargli da mangiare. Tu immaginati quando arrivo in campagna, manco un cancello mi va di aprire. Manco il cancello, è che è a sbarre strette, quindi non ci passa in mezzo anche un ciccione. È grosso, no, è ciccione. Ma come me ne scendo la macchina, lui scende, come apro il cancello, vum, parte e sparisce, non sai più dov'è, tocca frusciarlo, capito? Perché sta in giro a destra e a sinistra. L'altro giorno sicuramente c'era qualche coniglio, ed era correndo a destra e a sinistra, brinchendo, gli ho detto, bah, o ce l'ha con qualche gatto, e invece i gatti erano tutti fermi lì sotto la mansarda, sotto la tettoia, quindi sicuramente c'era qualche coniglio, qualche lepre, boh, qualcosa, vabbè, appunto, non vedo l'ora proprio per il cane, perché anche per lui è un altro habitat. Ciao ragazzi, divertitevi, ci sentiamo domani, se coincide, se Dio vuole, se no le prosce, vai già, che vado a portare il cane. Una cosa, Pippi, non sei più la torre di controllo. Tu sei sicuro? Beh, non è più la torre che c'è qui. E allora tu non sai dove sono. Ho fatto io col portatile, quando sono in campagna, col portatile, lo conosci in diretta, col portatile. Tu affacciati alla tua finestra, guarda dove c'è il ripetitore, quello della RAI, che è mezzo cemento e 80 metri di traliccio, io sono lì sotto mi. 420 metri contro i 312, 315. Gianni, ascolti che ci mettiamo io e Claudio e non parla nessuno a Sassari e gli ho chiamato in fondo. Allora tu immaginati Fra che lì con il ricevitore, io lì c'ho il ricevitore della IAESO, un FRG 9006, con il ricevitore con l'antennino suo mi arrivi fondo scala, capito? Tutto l'atterraggio mi arriva a fondo scala, i PMR non ne parliamo, qualche giorno mi sfasciano anche lo smitter, lascia perdere già, che è un'altra guba. Da cane che devi fare almeno 2 chilometri a salire, detto, sotto il ripetitore, si vede la sassa di quel ripetitore, no? Se tu c'hai un binocolo buono, sei appassionato, prendi il binocolo, ti sposti 50 metri e c'è una casa sotto lì, si vede, guarda, dall'uscita di Via Italia, se tu guardi all'uscita di Via Italia, guardi quel ripetitore che c'è tra cemento, il traliccio grande della RAI, tu guardi a fianco, guardando, se vedi bene da lontano vedi anche la casa. È altissimo, altissimo. Io quando sono lì, parlo con Alghero in diretta, 525, vabbè, punti dici tu tutti. Tranquillo, tranquillo. A parte è fatto già. L'era della torre di controllo è finita ormai. La gente che viene rimasta, basta anche un baracchinetto da 5 watt, già ti sentono lo stesso. I più belli sono passati, adesso vedo che qualcuno sta nuovamente, si sta nuovamente montando la testa anche il 27 e lasciamo rifare. Io già sto bene come sono già, a Giovinito Bigliacopi Bala Radio. Ciao, buonanotte a tutti. Non come, ciao. Ciao Claudio, buona serata, buon tutto, ci ascoltiamo. qualcosettina. Basta sollevare altre 6 metri della mia antenna, come ce l'avevo una volta, 12 metri, e vedrai che passo, in maniera che passo. Cosa devi sollevare, fra, che me lo scendo io? Lo so, non c'è bisogno di sollevare, ma ce la sollevo come ce l'avevo una volta, a 12 metri di palo, e invece faccio con Cristal di Alghero, da quella punta dove era lui, faceva molto in difonte. Quando c'era qualcuno che ci fermava in piazzale di Oristano col camion alle 6 del mattino, io e Domenico Cristal da qua a Milano verso Navescio, parlavamo in diretta con Oristano. Cristal a me mi arrivava a 9.40, ma tu immagina che dove sono adesso, c'ho praticamente Montedoglia di fronte, io vedo il faro di Capocaccia che si illumina la notte, e poi, già lo sapete, per Alghero questa zona non ce n'è. Immaginate già di andare via Domenico Cristo, mamma mia, da paura che... Io che parlo di quando ho fatto passare un cuore da mamma, con la gran crisi arrivò sempre a Roma, da sacro cuore. Ma perché lui vedeva a te, tu non vedevi a lui, è sempre lì, proprio, come io. Voi a me non mi vedete qua, tu a me non mi vedi, no, è solo io che vedo a te, è chiaro che il segnale te lo devo dare più alto io. No, non aspetto una paura. Da dove sei adesso sei di fronte a me, perché sono alto, però io ti vedo, io da su Sassari è sotto, è tutto sotto, capito? Tu lo vedi perché è alto, ma dal Sacro Cuore era lui che vedeva te, tu a lui non lo vedevi. Perché c'è molte ore per fare. Appunto già, mentre la differenza io da qua a Franco non lo vedo perché c'è una collinetta più avanti di me, nella zona dove abita Marco, quella che cos'è quella zona lì. Ma da Monte Oro io vedo Sorso, essendo lì Castelsardo, vedo tutto, c'ho tutto davanti. Qualcosa che non dia fastidio all'estetica e a tutto, capito? E poi vediamo, perché sopra in alto sto cercando, adesso si deve liberare Andrea, cercavo di fare una dependance particolare di quelle prefabbricate in legno, ben fatta, una cosa molto bella, proprio nella collinetta sopra dove c'è il giardino sopra. Allora lì non si vede la casa, il piattale di sotto, quindi me ne posso andare lì e fare quello che voglio, però stare isolato non mi interessa, capito? Vabbè, dando le ciance, dai, ci sentiamo, ciao a tutti, tra le prime. E domani. Va bene, dai. E prima di andartene, Clark, com'è questa la radio adesso? Guarda che ho cambiato microfono e baracchino. Vieni a vedere. È buona, fra, però non so se Gianni è d'accordo, ti porti appresso un rumore, no già? No, non ci ho fatto scala, troppo a breve a parlare. Ehi, capo, vedi a vedere, mi porto appresso un rumore, hai detto, bravo. E questa è la cadenza del comando. Sembra che sia a bollente. Devo stare a capo, la batteria questa è buona. Sì, lo stesso. Sempre a 30 watt? Sì, sempre a 30. Beh, senti la nuova, sì. Ehi, capo. Posso aumentare però, vedi? Ok. Ecco, adesso l'ho portato a 45, a 45 l'ho portato. Com'è adesso? 9,5 abbondante. Ehi, capo. E la radio è stata buona? Sì, che è buona, cioè vabbè. Dai, vado che c'ho Filippo pronto. Ciao, sentiamo. Ehi, capo. Ciao, capo. Ciao, ciao, capo. Sì, sì, già, sì, sì, lì. Ancora non è finito, sta ancora a finire. Sì, io. No, pensavo che fosse il lavoro che stavo già facendo. Oh, vabbè. Ma grazie a tu, è studio. E allora? È un bel lavoro, un bel capolavoro. Lo vedi dal vivo, è favoloso. 7 metri è lunga quella rampa. Ma c'ha le mani d'oro, legno. Legno lo mastica forte, Andrea. E poi c'ha i macchinari, c'ha tutto, capito? Adesso avrebbe l'atto l'impregnante, adesso la deve verniciare e poi finita. Ma c'è anche le tegole, hai visto? Ma dove si impregna? Come sono le ferrovie? Come è entrata le ferrovie? No, quelle erano già impregnate, poi vanno trattate, verranno accatastrate in piano, capito? Poi lui le lavora e poi le vernicia, le dà il fratting, no? No, poi capito, è meglio chiamarla sempre campagna, ma mi pare è come te la sia lasciuto la cosa. Ci sta. Certo, persone ci stanno sotto quella veranda. Ma quindi cosa decidi di trasferire? Beh, appena svuoto qua, sì. È svoltato tanto qui. È tutto svoltato, ma non c'è più niente, non senti il bombo, è vuoto. Ti mando a vuoto. Eccoli come era tanto, non c'è più niente qua, c'è più niente. Vabbè, l'aria è già lì, però qui ancora c'è la togliomba di roba, capito? C'è la togliomba di roba perché agganci ne ho tanti, ma poi quando vanno in banca di là non ne ridate né qui. Devo fare a destra a sinistra, a prescindere vabbè che da maggio, giugno, luglio, agosto, settembre, 5 mesi, qua c'è la porta chiusa, allarme inserito, ciao, arrivederci. Quella di via San Francesco? No, quella di via San Francesco. Sì, siamo in contatto, però hanno problemi con il finanziamento, capito? Loro vorrebbero fare metà subito e metà un tanto al mese, così, senza finanziamento, no? Quella è di mia moglie e mio cognato, hanno detto di no, capito? Non va bene, non va bene, perché poi se succede qualcosa ti bruciano. Il mutuo, il mutuo di chi chiede? Loro hanno chiesto il mutuo, ma penso che siccome sono grandi di età, penso che non le diano più di tanto, capito? E quando è così, poi guarda, a parte che non perde lavoro, non vogliono la consiglia. Anche la moto mia volevano in quel posto, e no, io la moto per dove i dati, io di lui mi devo fare, se no niente. Ciao, era 2 anni affittata quella casa a me. Capito? Un mese si prendeva mio cognato, un mese si prendeva mia moglie, i soldi, 600 euro al mese, no. Perché la semi ammobiliata, ma era, insomma, gente, è partito la grande, poi è la grande, poi è iniziato a tentennare, tardava, un mese, 2 mesi, 3 mesi, poi abbiamo fatto un'indagine, alla fine lui non aveva detto niente, ma praticamente non stava più lavorando come prima, capito, perché era un artigiano, però era calato molto il lavoro e alla fine l'abbiamo chiamato e dice cosa vuoi fare? Il contratto scade fra 6 mesi, o vai via adesso o se no mi devi dare i 6 mesi che non mi hai dato prima. Ha fatto la persona onesta, ha detto guarda la lascio, meglio che ecco, la lasciala subito, non vogliamo niente, dammi le chiavi, ciao, arrivederci. Non fa neanche affittarla, per un anno è andato bene. Per un anno questi soldi, un mese uno, un mese all'altro, un mese all'altro, andava bene. Poi allo secondo anno ha cominciato a tentennare e alla fine mio cognato ce l'ha mandato via. Ormai no, non mi servono le 400-500 euro al mese, non mi servono più, grazie a Dio. Io devo recuperarmi i quattrini che ho già cacciato e basta. E quindi la prendo e basta, e mi recupero i quattrini che ho già tirato fuori per fare altre cose. Quindi, se no, la dovrei buttare anche affittare, ma non mi interessa. Capito? Fino a quando? L'affitto comunque io appena è tutto pronto. Minando, non me ne ha fatti nulla, chiudo la porta, ho fatto fare anche il sistema di allarme, quindi, perché quando ero al piano ne avevo, ma al secondo piano l'ho fatto anche per le radio, per le cose, adesso una volta che è sbarato tutto qua, che non c'è più niente, stacco il contattore, stacco tutto, ciao, arrivederci. Sono già 45 anni, 40 anni ho aspettato, quindi posso aspettare anche 43, 44, però ti posso dire che la soddisfazione me l'ha stato dietro di farmi una vecchiaia come dico io, se Gesù Cristo ci lascia, se no se la biglia il culo, non mi dico. Ciao Gianni, grazie le due chiacchiere, dai, scusa se ti ho rotto le scatole, adesso vado a portare il cane, mi stavo preparando, avevo il pigiama. Un camion, no, che ancora mi dispiace che c'è un camion in questa casa allucinante, vabbè. Ci sono 24-25 gradi solo con i termosifoni accesi. Allora, vabbè, di là già c'è il fotovoltaico. Ciao già, ci sentiamo domani. Ciao. No, io già sono a posto, devo mettere le scarpe, più vuoto sta. No, già, non ci riesco, cioè io sto in pantofole e pigiama, quello leggero, perché c'è troppo caldo. Adesso mi ho messo i jeans, mi ho lasciato già che il pigiama sotto, mi filo giubbotto. Le scarpe da tennis mi ha messo lo porto. Ciao a domani, ciao a tutti. Ciao, buonanotte, mamma. Ehi capo, ciao capo. Ce la portiamo le prossimine. Sì, 29 gradi qua, ciò. Che sciuga. Bisogna togliere la tuffa. Ma attaccata. Ehi, c'ho la tuffa pelle, ce l'ho. Ciao. Dove sono io? Mi sale tutto qua, nella tromba della scala, così. Sei sarto. Cosa? Ho detto se sei attaccato, che sei sarto. Ah, sarto lo so, aspetta. Allora, prendiamo un po'. Ecco, e adesso com'è? Adesso già mi dovrà. Ecco, sì, ero attaccato. Ah, forse vado a passare un po' di batte alla radio. Sì. Sì. No, là perché esce quella, l'altra parola che esce con un watt, due watt, esce, prende anche due watt, esce. E allora non gliel'ho attaccato a posto. Mi sa che glielo stanno dentro poi. Oh, yeah. Come c'è prima che guarda, non mi misura, non si ammalava mai, per carità, era prima era cara, ma sono signori, e poi io sono contrario a avere un cane dentro l'appartamento, perché il cane soffre dentro l'appartamento, meglio è quando c'è una campagna che gira, va e torna, lì si usa il fisce e sta meglio anche. No, ma va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, arrivati non arrivano a casa, però abbiamo trattato con tutti più. Si mangia a casa, ma chi ne sera mi entra. No, la verità la fanno, io gli do pasta, carne, gli do mangi per quello che non sta una messuria. Sono buono. Ma non è che lui. L'altro giorno c'era stata la sfuggia che stavo mangiando dello specchio, ha pensato, ti ho preso un pezzo di specchio, di quello là. A piedi, no? No, io non stavo parlando di mangiare, certo che sono sicuro che uno che si tiene in cane, anche se dentro casa andava a mangiare e gli compra le cose come si deve, tutto soprattutto. Ma il cane lui stesso sta male dentro l'appartamento, perché non ha posto per giocare, per andare, per garantirsi le gambe, di correre, capito? A casa c'è la cosa, la grana. Vedi la mano, come è stata la mattina all'altra, gioca, fa, e non so, non è come la campagna, ma in campagna ci sono le cose, si pigliano i zecchi, i punti, si pigliano i curanti di malattie, e lui lascia perdere. In campagna ci sono anche i malati. Sono più suggeriti perché ci sono, specialmente da papacci, il cane non è, non gli dice tanto bene. Però, ogni tanto bisogna che uno abbia il suo ognuno deve vedere. Io sono una cognata, lo stesso che a Torino, che viene nel suo caso, ma i giugnali, certo, siamo in giugnale, basta. Come per frenare il pesce andateci qui ad andare alla Ianna, ad andare a uno. Piccola la mia, quindi già c'era la sua parte. E poi io cercato di parlare, oh, è scusato, ma ho trovato che la cercare c'è stata questa. Ehi, ma questo non è il bicchiere di tutti? No, il mio è uno sciarpe cinese, cercalo, cerca sciarpe cinese. Praticamente della stessa categoria dei polosi, è un polosso come quello di Claudio, come Pitti, sono tutti i polosi, come il boxer. Sì, sì, no, non so guardarlo adesso, però non lo rimandare. Praticamente se tu leggi la storia dello sciarpe cinese, praticamente c'è scritto che vive da 2000 anni, che è stata la razza base, poi c'è quella che incrociano, che hanno incrociato gli americani con i russi, poi hanno fatto quel cane lo sciarpe americano, che è quello con il muso grosso e con le piedi. E praticamente lo usavano per caccia, per guardia e per combattimento, soprattutto per i combattimenti. Anche per il convertito è un cane che si è trovato in una settimana sempre più di marcia in città, non più di qua. Ehi, ma è bello come cane, è bellino, non è il solito sorriso grosso, ma questo è bello, è un cane, c'è una bella tipica. Sì, ma lo dico tutti, mi dico, ah, la ragazza forse è il buono, ma è detto, ma stai dicendo, a me è un cane. Di solito il valore del cane si fa un altro. Ti è dico a te, tu busca una bella ragazza, una bella cagna che abbia una bella padrona. E allora, da un video. Ah, sono lì trovi. Allora lo tengo, però può anche pretendere il terrazzo, trovo una bella terrazza, ciò. Però non ti dico. Fra, io dico che ho un impegno, però danno molte soddisfazioni, però ti portano anche problemi, perché l'altro giorno ci siamo fermati, ma ci siamo fermati con questa coppia, mi ha salutato l'amico, gli ha messo sulle spalle, poi io lo portai e con Marco, ti premetto che per Marco va Marco, dai, quando arriva va di fare contro l'ascensore, che arriva di riprese e amiche. Non neanche uno ragazzo, mai, mai, mai. Fatti da mio padre in campagna e gli metteva appresso, si dimenticava la giacca in campagna e lo si muoveva a pensiero che arrivava a Babbo e si prendeva la giacca. Magari qualcuno non li fa a genio e li fa vedere i libri. questi soldi che ti dà la vita, praticamente li metti ogni mese che ti scala, metti questi soldi, di modo che tu abbia soldi. Però devi essere bravo a conservare questi soldi, non devi sputare altri, se no hai perso. Sono 63 anni e 7 mesi. Sì, 63 anni, sono un po' più. Aspetta che...